Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis Jean Bobin. L'ascensore per il patibolo. La tappa che conduce tra terra e vento. Il Monte Ventoso. Il regno del Mistral. Spiazzato, spazzato, strapazzato, rasato al suolo. Di più, è il Monte Pelato, è il Grande Pelato, è un immenso fungo, un errore della natura, un moloch, una montagna esplosa dal mare, di sabbia e vento, terra di nessuno, un suolo lunare, nudo, inospitale, soltanto sassi. D'inverno addolciti da spolverate di neve, d'estate arrostiti dal sole. Un'arca di Noè. Marco Pastonesi, Pantani era un dio. E Mont Ventoux allora, Mont Ventoux doveva essere, Mont Ventoux è stato per metà. Dal Mont Ventoux noi ci siamo stati per tutto il pomeriggio tramite il divano, come al solito nel pomeriggio di ieri, e oggi siamo qui un po' a commentare quello che è successo, un po' a commentare quello che è successo al di fuori della corsa. Siamo sempre a Radio Bidon, siamo in tre questa volta, io sono Filippo Cauz, come sempre sta a me l'introduzione, con me c'è Leonardo Piccione che già conosciamo più che bene, ciao. Buongiorno, Leo. Ciao. Dall'altra parte dell'internet c'è collegata un'altra persona che conosciamo, o almeno conosce chi ci segue dai tempi di Crampi Sportivi, ovvero Oscar Cini, che è veramente un piacere avere con noi. Ciao Oscar. Ciao, ciao a tutti e grazie a voi per avermi chiamato, è un piacere per me innanzitutto. È un piacere per tutti quanti, smettiamola di farci così tanti convenevoli e veniamo dunque. Sono d'accordo. Con Oscar abbiamo vissuto gli ultimi anni il ciclismo dalle pagine di Crampi Sportivi, con lui abbiamo seguito il Tour del 2015 e abbiamo realizzato l'ebook Quel Leggero Vagabondare, che potete trovare in free download su internet. E poi lui se n'è andato giustamente dopo quell'esperienza dell'anno scorso. È stata così traumatica. Esatto. Di andare via, no, scherzi a parte, è una cosa che mi manca tantissimo in realtà. Avevamo detto di smetterla con i convenevoli, ma in realtà mi manca un po' poterla seguire e commentarla con voi subito in diretta ogni volta, è una cosa che un po' mi manca, però insomma ho cercato in questi giorni di tenermi al passo, nonostante il lavoro chiami, ho cercato comunque di aggiornarmi attraverso di voi come sempre. Senti, poi col tuo lavoro ci siamo rincrociati però, perché oggi tu sei, non so che ruolo hai, ora ce lo dici, a Rivista 11. Sì, sono a Rivista 11 da molto poco, da 6 mesi circa, e sono editor di 11 e faccio un po' di scouting di firme, scrivo delle cose che mi piacciono, sono stato molto fortunato a poterlo fare e ovviamente, cioè, era naturale che quando mi è stato chiesto di indicare qualcuno che potesse scrivere di ciclismo bene, con competenza, le prime persone a cui ho pensato siete stati voi, insomma era naturalissimo, cioè non poteva essere altrimenti, e quindi sì, niente, sono a 11 adesso, stiamo lavorando al nuovo numero, sono molto contento. 11, che è un magazine di più sport, ovviamente il ciclismo occupa solo una piccola parte, ma ci faremo spazio tutti insieme, e sì, vogliamo dare un link per chi, per i pochi, sì, che non lo conoscessero. È www.rivista11.com e ci trovate principalmente scritti di calcio, ma anche di basket, ciclismo e tennis, e appunto stiamo cercando di far crescere all'interno di 11 anche tutti gli altri sport, speriamo di riuscire in brevissimo tempo a portare anche gli altri sport a livello di trattazione che adesso è il calcio. E su internet, certo. Oscar, è anche in edicola ovviamente. È anche in edicola, lo trovate sì ogni 2 mesi, adesso usciamo a inizio agosto, ogni bimestre siamo in edicola, quindi se andate sul sito e vi piace quello che leggete potete anche trovarci in edicola e siamo felicissimi, insomma. Ok, esauriti i nostri lunghissimi convenevoli, andiamo al punto della nostra trasmissione, che è ovviamente il Tour de France, che è ovviamente il Mont Ventoux, una giornata, quella che abbiamo vissuto ieri, che penso che ci ricorderemo per diversi anni, non soltanto noi, quasi tutto il ciclismo se la ricorderà, una tappa che ha vissuto su due facce, come spesso capita, con una fuga che è andata via da lontano e una corsa tra i big che si è accesa negli ultimissimi chilometri. Nella fuga da lontano ha trionfato, e lasciatemi esprimere la mia più profonda gioia, perché uno dei miei corridori preferiti, non l'ho mai nascosto, Thomas De Gendt, con una splendida azione nel finale. Tra i grandi si sono visti un po' di pizzicotti, si sono visti un po' di scatti, si sono viste soprattutto scarse figure in bicicletta, tante figure a piedi e in motocicletta, e come spesso capita a un certo punto queste figure hanno finito per scontrarsi. Nello specifico è la dentatura di Richie Porte che è andata a sbattere contro la moto della televisione francese. Le immagini le avete viste tutti, penso che ieri abbiate passato ieri la nottata a seguire gli avvenimenti. Ciò non toglie che siamo davanti a un fatto davvero unico nella storia del Tour de France. Beh, siamo davanti a una tappa che già è leggendaria nel bene o nel male, perché ovviamente tutti noi speriamo che non succedano cose come quelle che abbiamo visto ieri, però la scena della maglia gialla che correva a piedi sul Mont Ventoux certamente è già di diritto nella storia del Tour, e ovviamente riempirà i nostri computer, i nostri schermi a lungo, perché ci sono un sacco di già fotomontaggi di ogni tipo. Ho visto Froome inseguito da Tori correre maratone, fare il triathlon, insomma c'è davvero di tutto, ce lo porteremo dietro per un bel po'. Al di là di questo c'è da dire che è stata presa una decisione da parte della giuria anche abbastanza discutibile, mi sembra. Sì, io in realtà una cosa del genere veramente non l'avevo mai vista, nonostante mio padre insomma mi abbia costretto, ma in realtà fortunatamente costretto, a guardare il ciclismo da quando sono piccolo. Ho provato a sforzarmi un attimo per vedere se ero in grado di ricordare qualcosa come quello che è successo nella tappa di ieri, e non me lo ricordo. Cioè, so solo che a un certo punto ho iniziato a correre e a chiedere: ma avete visto cosa sta succedendo? Hai iniziato a correre come Froome, anche tu. Sì, uguale, però per tornare in redazione e dire: ma avete visto cosa sta succedendo? Sì, in realtà la scelta della giuria è insomma, mi sembrava la classica pezza a colore messa per riparare un danno cui non si può riparare, e che in realtà è, non so nemmeno quanto giusta, probabilmente ingiusta, almeno dal mio punto di vista, per chi come Mollema aveva guadagnato del tempo. E non so, non lo so, non mi sembra veramente ancora fuori dal normale, che non riesco ad accettarla completamente. Beh, è una decisione controversa, infatti lo stesso Mollema su Twitter ha detto che sì, la cosa sarebbe successa se lui fosse stato l'unico a cadere in quella situazione. Invece, essendo stato coinvolto anche Froome, forse è stata presa una decisione diversa da quella che sarebbe stata presa senza Froome. D'altra parte però c'è Yates, che è stato maglia gialla per 20 minuti, che invece dice: non avrei mai indossato quella maglia gialla perché è Froome che deve giustamente indossarla, se l'è meritata, e io mi sarei sentito male a indossarla al posto suo. Quindi c'è un po' di divisione, di opinioni differenti anche tra i ciclisti, e una decisione che non ha raccolto consenso unanime. Beh, era abbastanza impossibile trovare un consenso unanime su una situazione del genere, nel senso che un po' il fatto va veramente al di fuori di ogni forma di schema e di regolamento che possa essere pensato. Se vogliamo, il regolamento nella tappa del Ventoux è stato tradito più volte, perché ne abbiamo viste un bel po' di forzature. Di certo i delusi sono tanti, i delusi lo erano già tutti per quello che è successo, ma non lo so, io personalmente non riesco ad appoggiare questa decisione. È sicuramente una decisione di buon senso, però si sta, come spesso si dice nel ciclismo, si sta riscrivendo una classifica. Qui c'è stato un incidente di corsa che ha falsato le dinamiche di corsa, e la pezza è stata messa a riguardo di 3-4 dei coinvolti in questo incidente, tutto il resto di tutti gli altri no. Tra l'altro insomma si fissa un paradigma e un precedente che non so se definire pericoloso esatto. In realtà sì, cioè come si fa a non essere d'accordo con Mollema su questa decisione e dire perché insomma devo essere in qualche modo penalizzato io da qualcosa che è successa a tutti e tre, cioè è successa a tutti e tre, siamo caduti in tre, perché si sta riscrivendo questa classifica in questo modo, quando in realtà è vero, lui probabilmente si sta in qualche modo chiedendo se non ci sia stato un po' di terrore da parte dell'organizzazione rispetto a un possibile abbandono del Team Sky, e con conseguenze anche abbastanza importanti e pericolose a livello di sponsorship. Chiaro, poi c'è da dire anche che dal punto di vista molto egoistico, sarebbe stato forse meglio per tutti che Froome avesse perso la maglia gialla e avrebbe dovuto rincorrerla nelle tappe successive. Questo sarebbe stato per noi motivo di maggiore spettacolo, maggiori attacchi, perché a quanto pare lui è davvero l'unico che ha voglia e le gambe per poter fare la differenza. Forse non in salita, perché anche oggi, prima del famoso incidente, non era riuscito a fare la differenza che forse aveva sperato. Però anche oggi ha dato segnali importanti, soprattutto a livello di lucidità mentale, perché la sua corsa lì, la sua scelta di mettersi a correre pensando che comunque avrebbe fatto bene ad arrivare al traguardo anche a piedi, senza bicicletta, è una decisione incredibile, un sangue freddo che da una maglia gialla in quella situazione uno non ci si aspetta. Penso che io la vedo all'opposto. Ah, bene. Invece veramente un momento, finalmente un po' di dibattito. No, la vedo davvero una scelta di poca lucidità, il tempo che perdi mettendoti a correre con le scarpette, il tempo che recuperi velocemente con le gambe di Froome a pedalare, e soprattutto, qui giustamente la giuria non è intervenuta, ma mi risulta che il regolamento vieti a un corridore di procedere senza una bicicletta. Un conto è correre portandosi la bici a mano, un conto è procedere a piedi. Questo mi risulta da un regolamento. Sì, ma lui ha pensato: nel frattempo, mentre mi porta un'altra bicicletta, io 300 metri li faccio a piedi. E non andava nemmeno troppo piano, considerato che aveva gli scarpini e non era affatto semplice. Comunque più lucido di Sepulveda dall'anno scorso, che quei 300 metri li ha fatti con l'ammiraglia altrui. Esatto. Io tra l'altro avevo, quando ho chiuso le tab della gara ieri, ero anche moderatamente contento, come diceva Leo, perché in qualche modo si ricominciava ad avere un po' di combattimento, e c'era in me una sana goduria nel vedere una classifica riaperta, ma soprattutto la possibilità. In realtà non avevo messo in discussione la vittoria finale, cioè secondo me Froome sarebbe stato ed è comunque favorito, senza se e senza ma, però almeno avrebbe dovuto combattere un po' di più, lottare un po' di più per riuscire a vincere la classifica generale. Ho riaperto il computer poco dopo e mi sono trovato, insomma, con una classifica completamente diversa. Ci sono rimasto un po' male, devo dire la verità. Secondo me è vero che non aveva ancora fatto la differenza, ma era riuscito a tenere senza problemi gli attacchi di Quintana, e non so, cioè mi sembrava comunque in controllo assoluto della situazione anche ieri. Quintana forse è lo sconfitto un po' della giornata di ieri, perché è stato staccato da Froome, da Mollema e da Port, è stato in difficoltà nel gruppetto che si è formato dietro e non ha dato buone sensazioni per il proseguo del tour. Ci aspettavamo qualcosa di più. Kautz, che ne pensi? Sicuramente, gli sconfitti della giornata di ieri sono tanti, però stando solo all'aspetto agonistico, credo che Quintana sia sicuramente quello che... Quintana e Purito sono i due che più possono recriminare di come è andata la tappa. Recriminare, possono insomma lamentarsi verso se stessi, verso le proprie gambe, di come è andata la tappa. Quintana ha dimostrato un po' quello che qualcuno aveva già avvistato sui Pirenei, di un corridore che non solo gli mancava un po' di coraggio, ma evidentemente gli mancavano un po' anche le gambe, perché ci ha provato più volte e non solo non è riuscito a staccare Froome se non per pochi istanti, ma non è riuscito neanche a isolarlo. Sull'attacco più deciso di Froome è rientrato Puls, c'era addirittura un gregario Sky a portare sotto Froome. Questo insomma mi viene da pensare che se anche ci fosse stato un Vantù intero, non penso che avremmo visto qualcosa di diverso, anzi forse avremmo visto il pubblico più diluito, e questo sarebbe stato un vantaggio per tutti, e forse avremmo visto più distacco da parte di lui. In prospettiva spettacolo, chiaramente questa condizione di Quintana non ci fa ben sperare, perché va bene, aspettiamo la terza settimana, lui ha puntato tutto su quella, l'ha detto già dall'inizio, però come ci arriva sta terza settimana? È già un minuto da Froome, e il morale è quello che è, e le gambe sono quelle che sono. Sì, infatti ne avevamo parlato un paio di giorni fa, chiedendoci se fosse una tattica fin troppo attendista. A questo punto potremmo anche quasi pensare che in realtà in questo momento non ha veramente il quid, lo sprint, la forza nelle gambe per fare più di quello che ha fatto. Cioè, ci siamo detti con Leo, probabilmente sta aspettando, gli sta bene rimanere a quel range di secondi fino alla terza settimana e provare tutto in quella settimana. In realtà, insomma, lo spero ancora, perché è l'unico che forse riesce a darci un minimo di spettacolo, ho meno convinzione che possa essere così dopo la tappa di ieri. Io ho visto un po' meglio Haru ieri sul Vantoo, l'ho visto un attimo più consistente in salita e ho buone sensazioni per quanto riguarda la fine del suo tour. È già rientrato nella top 10, credo che sia ottavo, quindi confido in qualche suo tentativo interessante nei prossimi giorni. Sì, probabilmente in crescita. Io però devo dire che quello che ho visto davvero bene e continua ad andare un po' a fari spenti rispetto a tutti è Yates, che ancora ha fatto una corsa a livello dei primi e è lì, e adesso andiamo a vedere come se le gioca queste Alpi. Però Yates a questo punto, se questo è il suo rendimento per il podio, il nome è il suo. Beh sì, sì, sicuramente visto ieri molto bene, e io mi giocherei lui e più di Quintana, che non ho visto benissimo, uno, lo so, un Bardet, così, giusto per essere un filo francesi, visto che si corre in Francia, dico Bardet, non lo so, mi piace questa idea che un francese possa... Piace anche a noi, soprattutto a Kautz. No, ma anche aggiungerei Port, che ieri sul Mantua è stato uno dei più attivi, ma concluderei dicendo che comunque sembra essere tutto apparecchiato per un tour leggendario da parte di Froome, perché protagonista tutti i giorni, quando dovrebbe, quando non dovrebbe, nel bene e nel male, si parla soltanto di lui e ovunque, sarà il suo tour, credo, se non succede nulla di eclatante. E leggevo adesso un tweet anche in cui si dice: lui non è soltanto il più veloce in bicicletta, è il più veloce a piedi, è il più veloce anche sui social network, perché ieri è stato il primo a comunicare che aveva mantenuto la maglia gialla nonostante l'arrivo. Quindi primo ovunque. È un triathlon a modo suo, esatto. Vediamo a questo punto chi sarà il più veloce sul passo, nel senso che un primo arbitro di questo tour doveva essere il Vantoo e non lo è stato. Un secondo arbitro invece ce l'abbiamo qua a portata oggi pomeriggio con la prima crono di questo tour, che arriva tardissimo. Com'è sta crono, Kautz? È una crono che innanzitutto immagino che correranno, mentre forse una giornata di riflessione ci poteva stare a questo punto, visto che una riflessione su ciò che circonda la corsa ancora non l'ha voluta fare il ciclismo, nonostante quest'anno gli incidenti si stiano ripetendo anche con conseguenze tragiche. E vabbè, ne parleremo con più spazio in un'altra occasione. Oggi si parte per la crono, è una crono di 37,5 km da Bourg-Saint-Andéol, le pronunce oggi sono difficilissime, si arriva alla Caverne du Pont d'Arc, dove leggo che è stata ricostruita la grotta Chauvet, dove sono state rinvenute le più antiche testimonianze di arte preistorica al mondo. È una crono vallonata, ci sono 7 km di salita all'inizio, poi un lungo piano che forse è più un falso piano che un piano, una discesa che a quanto pare non è particolarmente difficile e si chiude con una salita al 5% fino all'arrivo. Una crono di certo non per passistoni, visti i valori in campo che ci ha mostrato il Vantoo ieri, penso che sia un affare tra Port e Froome, non vedo altri nomi possibili, però sarà interessante vedere a questo punto come si comporteranno i corridori che qui non devono perdere, perché la lotta per il podio, ad esempio Yates, è un nome su cui mettere proprio la lente di ingrandimento. Come va Yates a cronometro? Non male, si difende, non è un fulmine di guerra, ma si difende secondo me anche meglio di altri. Io mi aspetto una buona crono da Quintana, è lui quello che, se un po' di gambe le ha, è lui che deve tirarle fuori. Io mi sarei aspettato però da te il nome di Jérôme Coppel, non hai voluto tirar fuori, ma forse è troppo dura per lui. Vedremo. Ma più che altro con il mio bacio della morte che lascio a tutti i miei favoriti quando li do per favoriti, scusate la ripetizione, niente, non mi esprimo più. Ieri con De Gendt veramente ho rischiato. Io invece il mio nome per oggi pomeriggio è TJ Van Garderen. Secondo me oggi lo vediamo finalmente protagonista nel suo terreno preferito, la cronometro, un cronometro così. Chissà che non rientri anche lui in piena corsa per il podio, quantomeno. Io avrei detto Martin, ma non l'ho visto benissimo ieri. Quale Martin? Domanda trabocchetto. non Daniel Martin. Ah, ok, Tony Martin. Tony Martin. Però mi affido a voi che siete i miei esperti preferiti e quindi dico anch'io uno tra Port e Froome. penso che non si esca da loro due. Allora, ti affidi a noi e noi ci affidiamo al Tour de France a questo punto, perché direi che si fa l'ora per andare a vedere. Sì, penso che Arashiro parta tra poco, per cui ciò che ci interessa della crono si gioca subito, per cui insomma c'è sempre la lotta per la lanterna rossa che ci entusiasma, e ci riaggiorniamo al più presto, speriamo anche con Oscar che ci torni a trovare in remoto. Sì, io spero di tornare prestissimo con molta più calma e anche con molto più tempo da dedicare a voi, e cioè resterei veramente ancora un bel po' di tempo a chiacchierare i tour, spero che mi invitiate di nuovo, insomma. Certo, sarei grazie Oscar, grazie a voi, grazie a voi. Ringraziamo anche Angelo che ci ha introdotto la discussione di oggi, non ringraziamo Francesco che oggi non è pervenuto, si è disperso anche lui come la bicicletta di Froome sul Ventoux ieri pomeriggio. Aspettiamo sue notizie al più presto. Che ci resta, Kautz? Ci resta Dino Zandegu che preme perché poi parte anche lui per la crono. Ci sentiamo presto, ciao! Ciao, buon tour ciao, a tutti! Ciao. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me, un giro come quello al mondo non ce n'è. C'è la maglia gialla, la maglia Pua, poi chi vince il tour nella storia entrerà. Olè.